parla Carnevale, rivolto alla sua naturale antagonista Cresime. Soy Carnevale! Soy quellin di cui non fa stagni galantommi in allegrie, non vuoi malinconie, la mia conversazione sempre in consolazione sta in fieste in chianto. Parduzzo i cognosù, tutti ridi nel vigni, tutti vai nel partì delle persone. Gli risponde la moderatrice dei vizi che Carnevale alimenta. Cognos, calendra, vieni, e sai che Carnevale è causa di ogni male, d'ogni ruine. Barcan, non indovine colui che si dilete de squele maladette che ti insegni? Sta pur di che stumor e a tinta famili che mai dal tuo partit mi butterai. E io sempre sarai di mie capitani di te, sotto Carnevale e de tuo sete. Farai le mie vendette quando tu partirai e non tu tornerai fino a un altro anno. Se non che l'autore stesso di questi versi, Hermes di Colloredo, non dimentica le trascorse baldorie, anche se avverte sul capo lo sfriggio della cenere purificatrice. Son finidis li spiesti sei baletti, la cresime ie aduescula cinise, plen di ricreazion, plen di banchet, camaradis miei chiars, luciar mi cise. Ma mi sinta di, olà, citin! Io so ius che il coeri in Carnevale. E siamo alla mascherata di Gemona di quest'anno. La folla, proveniente da un largo raggio, invade le strette vie sotto il castello Turrito. Frotte di ragazzi a cui il bidello tenta invano di imporre ordine, bidello è lo stesso presidente della Proclemona, fattosi ragazzo per l'occasione, precedono il primo carro che ridà vita al mercato di San Biagio quando la città viene invasa da venditori e lattanzoli, da bipedi ed emigranti, da sensali e compratori. A femmini, i pulcini di van, neri come il carbon. Grazie pullare! Domandai e chiacare in furlan. Che tanto più! Sai pur di divan. Quattrimi di razza scene sugli onori di pulcità. Ecco il carro che esalta la maternità, quale appare agli occhi innocenti dei bimbi. La cicogna nel tepore del focolare dove convengono i familiari felici dell'evento che perpetua la vita. Una villotta nuziale dice la commozione dei cuori e dello stesso pubblico applaudente. Dindine dindone, dindine dindon, tu vas e tu tornis, c'è mi astu quartar, un anel in tal de e un basin preparat. Largo al carro dedicato alle sette note musicali, che si direbbe allestito alla memoria del loro inventore Guido d'Arezzo. Ma se il dotto monaco resuscitasse, fuggirebbe a gambe levate nell'ascoltare il jazz che inonda di squilli laceranti Gemona medioevale. altri carri, altri rumorosi saluti, altro frastuono nella città congestionata, mentre, sbucando da un boccale gigantesco come dalla torretta di un carro armato, passa la maschera friulana per eccellenza, vocal, grassaccio e rubicondo, incitando tutti a seguire il suo esempio di tracannatore incorreggibile di vino. Proprio vero. A Carneval, ogni mat al val. A Gemona, come in tutti i paesi del Friuli e del mondo. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Carnevale in Friuli, 18ª trasmissione dedicata agli emigrati.